Pastorella, non so tua sposa, sarò tua ancella, sarò tua ancella. Ora la misera qualche pietà che mi converta soffrire. Guardami, guardami, trema, son il tuo re, son il tuo re. Misera, merci, sentimi. Taci, imparo. Taci, imparo.